per sbaglio. Han fatto una famiglia, li ritrovi per la strada, senza affetto né una figlia. Ma un giorno proveremo a avere noi dei figli, a dare dei consigli, chi lo sa. Un giorno proveremo a avere noi dei figli, a dare dei consigli, chi lo sa. Separati che dai figli perdono tutto e rimangono isolati. Padri credono tutto, regali libertà, ti comprano quei soldi ma non è felicità. Ma un giorno proveremo a avere noi dei figli, a darle consiglio, chi lo sa. Un giorno proveremo a avere noi dei figli, a darle consiglio, chi lo sa. A casa, allontanati dal lavoro, non guardano più figli e poi gli chiedono il perdono di una vita che li ha un po' trascurati, ma è una scusa per tornare, perché sono un po' invecchiati. Ma un giorno proveremo a avere noi dei figli, a dare consiglio, chi lo sa. Un giorno proveremo a avere noi dei figli, a dare consiglio, chi lo sa. Rispettano la tua serenità, l'amor per la famiglia che nient'altro ha. Padre noi saremo, avremo noi dei figli, sì daremo del consiglio, chi lo sa. Dobbiamo unire tutto, vogliamo, pretendiamo, e il padre mai frustrato viene sempre condannato. Dobbiamo unire tutto, vogliamo, pretendiamo, e il padre mai frustrato viene sempre condannato. Dobbiamo unire tutto, vogliamo, pretendiamo, e il padre mai frustrato viene...